Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si alza il livello dello scontro tra Italia e Austria. Vienna si dice pronta non solo ad aumentare i controlli, ma a chiudere il Brennero. Il Parlamento europeo dà il via libera ai controlli sui passeggeri. Le compagnie aeree dovranno fornire tutti i dettagli. A Milano i funerali di Casaleggio. I militanti del Movimento 5 Stelle gridano onestà fuori dalla chiesa. Dopo il furto del 2013, recuperati gran parte degli ori del Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma. Sarebbero indagati alcuni alti dirigenti dell'INPS, avrebbero gonfiato il numero di truffe scoperto per incassare i premi di risultato. Denuncia il fratello vicino all'ISIS, ora la comunità musulmana del suo paese lo emargina, avviene nel Padovano. Medici di base in ambulatorio, 7 giorni su 7, ieri il via libera, ma in alcune regioni avviene già, obiettivo svuotare i pronto soccorso. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. Per qualche anticipazione sulla trasmissione e qualche dettaglio in più c'è il canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. Parleremo tra l'altro anche nel corso della trasmissione del Festival di Cannes, perché quest'anno non c'è nessun candidato italiano alla Palma d'Oro. Ci arriveremo più avanti insieme a tutto quello che avete sentito nei nostri titoli. In apertura dunque il Brennero. Per gli aggiornamenti sullo scontro con l'Austria, Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sale di ora in ora la tensione tra Vienna e Roma sul valico del Brennero relativa a gestione dei migranti. Oggi l'Austria lancia una controffensiva con il suo ministro della difesa che ipotizza la chiusura totale del confine se, dice, l'Italia continuasse a far passare i profughi, non prendesse indietro i respinti, insomma se la situazione dovesse sfuggire al controllo. Il rischio, secondo l'Austria, è che con la Germania che controlla il suo confine il Tirolo potrebbe trasformarsi in una sala d'attesa. Ma c'è di più: Vienna, che già la scorsa settimana ha cominciato il dispiegamento dell'esercito al confine, vorrebbe poter effettuare i controlli anche sul territorio italiano, quindi non solo lungo l'autostrada per il tratto al confine che le compete, ma anche sui treni alla stazione di Fortezza, che si trova a una trentina di chilometri a sud di Brennero, per assicurarsi che non ci siano appunto profughi in arrivo. Una linea dura che in parte si giustifica con il fatto che l'Austria il 28 aprile dovrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, con i partiti di maggioranza che appunto temono l'ascesa dell'ultradestra, ma una linea fortemente criticata da Bruxelles, che ha annunciato sanzioni e l'apertura di una procedura di infrazione in caso di violazione delle regole di Schengen, e dure anche le reazioni dell'Italia. Le barriere sono una zavorra, aveva detto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella. Questa mattina l'intervento del Ministro degli Esteri Gentiloni, che ha parlato di brutto segnale per l'Europa. Sentiamo. Se si tratta solo di parole, di gesti simbolici, penso che non ci saranno conseguenze sul terreno. Se invece ci saranno davvero muri, sarebbe molto grave. E intanto oggi in Germania la coalizione di governo ha trovato un accordo sulla legge sull'integrazione per i profughi. Offriamo un futuro ai migranti, ha detto Angela Merkel, ma chiediamo doveri per chi rimane. Per ora è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. La plenaria di Strasburgo, la plenaria del Parlamento europeo, ha approvato a larga maggioranza una nuova direttiva che regola l'utilizzo dei dati del codice di prenotazione, il controverso registro dei passeggeri aerei. Abbiamo in diretta Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda. Ma questo voto è giunto proprio oggi dopo una lunga trafila, lunga perché è da tempo che l'Unione Europea voleva dotarsi di una specie di banca dati dei passeggeri aerei. È dal 2011 che le trattative erano iniziate fra la Commissione, i governi e il Parlamento, e il voto di oggi è stato abbastanza incerto fino alla fine, perché alcuni esponenti politici erano preoccupati dalla privacy e dai pericoli alla privacy delle persone. Allora, ho parlato di specie di banca dati perché non si tratta di una banca dati unica. Vi è il tentativo di mettere insieme le banche dati nazionali. Ogni paese avrà una propria banca dati nella quale registrerà i nomi delle persone che viaggiano a bordo di aerei provenienti da paesi terzi, e poi dovrebbe esserci a un certo punto lo scambio di informazioni, uno scambio di informazioni che sarà volontario. Quindi non è una banca dati europea, ma sono banche dati nazionali che dovrebbero discutere tra di loro. Ti ringrazio, grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Cambiamo argomento. Oggi i funerali di Casaleggio, li ha seguiti Cristina Carpinelli. Onestà! gridano onestà, alcuni piangono. Sono rimasti in centinaia fermi davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie ad attendere che finisse il funerale di Gianroberto Casaleggio per sciogliersi, per interrompere il lungo silenzio che ha accompagnato l'intera cerimonia e gridare la parola onestà più e più volte. All'interno della chiesa i familiari, gli amici, i parlamentari, gli attivisti e coloro che sono riusciti ad entrare passando dal metal detector. Ci sono i cinque del direttorio: Sibilia, Di Battista, Di Maio, Ruocco e Fico. C'è Beppe Grillo, tutti visibilmente emozionati. Urlano onestà anche loro. Non rilasciano dichiarazioni. Subito dopo, però, sul blog di Grillo compare il ritratto dell'amico. Giù il cappello, signori. Rendete omaggio, di uomini così ne campano uno ogni 100 anni, scrive Grillo. In molti si chiedono cosa accadrà del movimento, ma all'interno la base si accalora. Dice di non sentire questa preoccupazione. Ci mancherà sicuramente un punto di riferimento, questo lo senz'altro, ma noi siamo sempre stati autonomi. La pensa così anche Umberto Bossi, venuto a dare l'ultimo saluto a Casaleggio. La ruota gira finché al perno, il perno ce l'ha, vuoi Grillo, vuoi altri che stanno emergendo. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Cosa sarà del movimento dunque? Prova a darci qualche idea il nostro Daniele Biacchesi nella sua analisi. I movimenti politici in generale sono stagionali. Alcuni si trasformano in partiti organizzati, altri si volatizzano, altri ancora, pur trasformati in partiti, affondano, si rialzano inglobati nel mercato della politica. La storia italiana porta tanti esempi. Il movimento dell'uomo qualunque di Guglielmo Giannini, diventato partito, si dissolve nel 48 in poco più di 3 anni di attività. Il movimento per la democrazia, la rete dell'ex sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, nato a cavallo di Tangentopoli, protagonista della cosiddetta primavera di Palermo, successiva alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ha perso consistenza fino ad estinguersi in poco tempo. La stessa Lega, nata come movimento federale, diventata poi partito, ha dovuto mutare varie pelli fino a raggiungere lo schema organizzativo attuale. Anche il Movimento 5 Stelle, dopo la morte di Gianroberto Casaleggio e il passo indietro di Beppe Grillo, affronta al suo interno il dibattito sulla trasformazione in partito. Le ipotesi sono molte. Grillo dovrebbe restare il garante. La gestione del blog e della piattaforma dovrebbe passare al figlio di Casaleggio. Ma la creazione di un direttorio e le regole più ristrette per l'entrata nei gruppi locali vanno sempre più verso la forma partito. All'interno molti mugugnano, protestano, perché sostengono che la vera forza del 5 Stelle sta proprio nella sua organizzazione libera, cioè movimentista, ma la possibilità di sparire dalla scena in pochi anni è un fantasma che aleggia. A questo aveva già pensato Casaleggio prima di morire, in una sorta di testamento per la sopravvivenza della sua creatura politica. Passiamo all'economia adesso con i dati diffusi questa mattina, innanzitutto dall'Istat sulla deflazione che colpisce sempre più città. Sono, stando ai dati, 22 le grandi città con i prezzi in calo su base annua, erano 20 a febbraio, nella lista rientrano anche Roma con un meno 0,5%, Firenze meno 0,4%, Napoli meno 0,1% e Milano meno 0,1%. Prezzi in calo anche per il cosiddetto carrello della spesa, l'insieme di beni che vengono acquistati più di frequente, un meno 0,3%. Ci sono anche i dati dell'INPS di febbraio, che ha ricevuto 105.000 domande di disoccupazione in febbraio, appunto, con un calo del 22,7% rispetto allo stesso mese del 2015. Nei primi 2 mesi dell'anno le richieste di indennità di disoccupazione sono state 254.000, con un calo del 28,6%. E dopo le previsioni del Fondo Monetario non particolarmente positive per l'Italia, parla il ministro Padoan, che si sofferma anche sul Fondo Atlante, quello che dovrebbe aiutare le banche. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Trasferta americana per il ministro dell'economia Padoan, l'occasione per affrontare i principali temi del nostro paese. Partiamo allora, Simone, dalle banche e dai diversi recenti provvedimenti. Il responsabile del Tesoro si dice convinto che si sia sulla strada giusta. Quanto alla creazione del Fondo Atlante, non costituisce, spiega, un bailout, un salvataggio del sistema bancario. Si tratta di un'iniziativa del settore privato per dare il calcio d'inizio e scuotere il mercato delle sofferenze. Per questo, ribadisce il ministro dell'economia, non solleva alcun problema di aiuti di Stato. Il responsabile del Tesoro interviene poi sulle stime al ribasso pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale sul nostro paese. Sono diverse dalle nostre, dice allora Padoan. Vedremo chi alla fine avrà ragione. Noi comunque sulle previsioni abbiamo un tasso di errore molto basso. Il ministro poi aggiunge: l'Italia è tornata a crescere, la disoccupazione disoccupazione in calo, anche quella giovanile sono dati incoraggianti ma non soddisfacenti. C'è l'impegno a continuare sulla strada delle riforme. Infine i temi europei, la Brexit sarebbe una tragedia, ammonisce il ministro, non solo per la Gran Bretagna, un passo verso la disintegrazione europea come lo sarebbe l'abolizione del trattato di Schengen. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Di banche si diceva, bene, oggi l'andamento è a due facce in una giornata di borsa che vede il FTSE MIB in calo dello 0,4% e il FTSE Share dello 0,33%. Vanno bene Banco Popolare più 2,6, Mediobanca più 1,3, Popolare Milano più 1,2, Popolare Emilia Romagna più 1,20, negativa invece Intesa San Paolo che perde 1,5% e Unicredit l'1,21%. Di mercati torneremo a parlare come sempre alle 13:30. Ora gli aggiornamenti sul caso Regeni. È un nuovo schiaffo all'Italia quello arrivato ieri da Al-Sisi sul caso Regeni. Da un lato il presidente egiziano ha ammesso che l'assassinio del giovane ricercatore rappresenta un problema per l'Egitto, dall'altro però ha negato un coinvolgimento dei suoi servizi segreti. L'ipotesi che si sia trattato di un omicidio di Stato è solo una menzogna fatta circolare sui media da gente malvagia, ha affermato l'ex generale, che ha anche invitato gli investigatori italiani a tornare al Cairo. Parole che hanno il sapore di una beffa. Dopo il richiamo del nostro ambasciatore, a Roma intanto si studiano nuove misure per fare pressione sul regime egiziano che nel frattempo, dal canto suo, per scongiurare i rischi di un isolamento internazionale, sembra essere riuscito a fare asse con Arabia Saudita e Francia. Gli accordi commerciali miliardari appena siglati con Riyadh hanno infatti ridato ossigeno alle casse dell'Egitto, che ora si appresta a chiudere altri affari con Parigi, molti dei quali per la fornitura di nuovi armamenti. Accordi che saranno firmati nella visita che il presidente francese Hollande ha in programma lunedì prossimo al Cairo, al centro della quale, almeno sulla carta, ci sarà anche il caso Regeni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla cronaca adesso. Tre manager di due società che gestiscono in varie città italiane farmacie e parafarmacie, tra cui la catena Essere e Benessere, sono stati arrestati a Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Gli arrestati sono Danilo Salsi, Enzo Salsi e Fabio Pedretti. Secondo l'accusa, avrebbero sottratto alle attività fallimentari di una delle due società 45 milioni di euro. Ricorderete i furti al Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma? Ebbene, gli ori sottratti sono stati, almeno in parte, recuperati. 23 dei 27 gioielli in oro e pietre preziose della collezione Castellani, trafugati dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, sono stati recuperati dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma. I reperti, tra quelli di maggior pregio e risalenti a metà 800, il cui valore supera i 3 milioni di euro, erano stati rubati il 30 marzo del 2013. I ladri erano entrati dal retro del museo e, dopo aver rinchiuso i custodi nella guardiola, erano saliti nella sala degli ori, dove hanno spaccato tre vetrine e rubato i gioielli della collezione Castellani usando dei fumogeni per non rendere visibili le immagini riprese dalle telecamere. Tre anni di indagini hanno portato a individuare gli esecutori del furto e i ricettatori e ad un avviso di conclusione delle indagini a carico di sei persone. Per il ministro dei beni culturali Franceschini è una grande giornata perché adesso gli ori torneranno al museo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Milano adesso, dove un writer è morto travolto da un treno. Avevano da poco terminato un graffito su uno dei muri di recinzione i due giovani travolti da un treno ieri nella stazione di Greco Pirelli a Milano. Un ragazzo di 19 anni, nato in Russia ma cittadino italiano, è morto centrato in pieno dal convoglio. Un suo amico italiano di 21 anni è invece rimasto ferito ad una gamba e guarirà in 25 giorni. Il conducente del treno non si è accorto dell'accaduto, era buio e pioveva, ha quindi proseguito il suo viaggio. A dare l'allarme sono stati invece i condomini di un palazzo vicino al luogo dell'incidente, dove sono state trovate 11 bombolette spray. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport, iniziando dal calcio, con l'Atletico Madrid che va in semifinale di Champions eliminando con un secco 2-0 i campioni in carica del Barcellona, irriconoscibili decisamente in quest'ultimo periodo. Avanza anche il Bayern che pareggia 2-2 a Lisbona contro il Benfica. Ma per la pagina sportiva vogliamo andare negli Stati Uniti, iniziando da questa voce. Hey, guys, you know, it's I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Ed è la voce di Kobe Bryant, supercampione dell'NBA, che ieri sera ha fatto la sua partita di addio, una serata tra l'altro nella quale, che è stata molto importante anche per un altro record, quello che riguarda i Golden State Warriors di Stephen Curry. Quindi una serata importante, una nottata importante, Dario Ricci, per l'NBA. Eh sì, davvero nottata importante, anzi per noi una mattinata. Pensa che la telecronaca è finita alle 7:17, se fai la somma è 24, è il numero della maglia giallo-viola di Kobe Bryant. E tu eri là davanti, Bryant. Tra l'altro. Io ero lì davanti, non l'ho vista tutta, non voglio vantarmi, però tre quarti l'ho vista. 60 punti per Kobe Bryant, l'applauso di Los Angeles, dello Staples Center. Se ne va a 37 anni, sicuramente uno dei campioni simbolo della nuova NBA. 5 titoli, personaggio dal caratterino sicuramente non facile e che forse sì, trascinato per un paio di stagioni di troppo, causa anche dei seri infortuni sul parquet NBA, ma insomma quello che ha fatto in questi 20 anni non lo dicono solo gli albo d'oro, ha veramente cambiato il gioco, così come lo sta cambiando Steph Curry, così come lo stanno cambiando i suoi Golden State Warriors. 73 vittorie e 9 sconfitte, questo è il nuovo record nella stagione regolare fissato dagli Warriors, che battono quei Bulls di Michael Jordan che nel 95-96 subirono una sconfitta in più. C'è un trade union che è il tecnico Steve Kerr, che era giocatore di quei Chicago ed è la mente in panchina di questi Warriors. Beh, allora adesso inizieranno sabato i playoff, vediamo se il record avrà in qualche modo saziato la fame di vittoria degli Warriors. Io non credo e gli do ancora grandi favoriti per il bis. Vedremo dunque che cosa succederà nei playoff ai Golden State Warriors. Per chiudere questa prima parte, una notizia di cinema: Pericle il Nero di Stefano Mordini con Valeria Golini, Riccardo Scamarcio, dal romanzo di Giuseppe Ferrandino, è stato selezionato per la rassegna Uncertain Regard, e parliamo del Festival di Cannes. Lo ha annunciato il delegato generale del Festival, Thierry Frémaux, presentando l'edizione 2016. Edizione 2016 però nella quale non ci saranno film italiani. Frémaux ha detto: è un anno così, ci sono anni così, ma l'Italia è sempre nel nostro cuore. Anche di questo parleremo più avanti, ma intanto ci fermiamo per il traffico e tra un attimo parliamo della vicenda di un uomo di origine marocchina che ha denunciato il fratello dicendo è vicino all'ISIS, e adesso la comunità musulmana del suo paese, che si chiama Monselice, lo sta sostanzialmente emarginando. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Partiamo con una notizia che è appena stata battuta dalle agenzie. Marco Milanese, l'ex consigliere politico di Giulio Tremonti ed ex deputato del PDL, è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Milano in un filone del processo del caso Mose. I giudici hanno contestato il reato di traffico di influenze illecite, derubricando l'iniziale accusa che era di concorso in corruzione. Questo per quanto riguarda Milanese. Poi nella prima parte abbiamo parlato dello scontro tra Italia e Austria sul Brennero, del Parlamento europeo che dà il via libera ai controlli sui passeggeri delle compagnie aeree, dei funerali di Casaleggio della morte di un writer a Milano. Adesso ci occupiamo di altro, ci spostiamo a Monselice, siamo in provincia di Padova, per raccontare una storia che sta circolando da qualche giorno sui giornali. Ci colleghiamo col sindaco di Monselice, che è Francesco Lunghi. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Si tratta della vicenda di un uomo, diamo solo il nome di battesimo perché mi sembra di aver capito che qualche problema già inizia ad avercelo, è già piuttosto grosso. Si chiama Fuad, nei mesi scorsi ha denunciato il fratello perché ha detto sta facendo propaganda per l'ISIS, vorrebbe addirittura colpire Roma. Ebbene, il fratello è stato espulso, ma da quel momento per Fuad è stato un problema nella comunità islamica musulmana di Monselice, che conta circa 800 abitanti sui circa 18.000 del paese in provincia di Padova. Ebbene, è stato sostanzialmente un emarginato, ricevendo tra l'altro, da quel che abbiamo capito sindaco, anche minacce al telefono, telefonate anonime, cose di questo genere, no? Beh, allora la situazione è in questi termini. Lui ha segnalato ai carabinieri il problema del fratello, poi se c'è tempo vi spiego anche meglio tutta la situazione, e la conseguenza finale è stato che il fratello è stato espulso dall'Italia ed è stato riportato in Marocco, proprio imbarcato e portato in Marocco. Come conseguenza di questo lui ha avuto una grossa esposizione mediatica, perché la notizia è rimbalzata sui giornali ed è emerso di un cittadino musulmano che denuncia il proprio fratello musulmano perché è pericoloso per la comunità, per quello che poteva diventare pericoloso per la comunità. Questo ha avuto un grande risalto ed è un grande per l'atto di coraggio che ha avuto veramente questo signore, che significa che è anche integrato poi tutto sommato nella nostra comunità, e da 15 anni in Italia è integrato nella nostra società, nella nostra mentalità e tutto il resto. Però tutto questo ha comportato una grossa esposizione mediatica, e la conseguenza di questo è dal lato che di notte riceve non telefonate ma squilla il telefono numerose volte e mettono giù. Quindi questo è un segnale sicuramente di allerta. La seconda cosa è che lui non era un grosso frequentatore della comunità musulmana, nel senso che c'è un centro culturale, non lo frequentava, non frequentava questo centro culturale, però quando lui si incontrava con gli altri concittadini musulmani, si salutavano, buongiorno, arrivederci. Adesso, non so, la domenica passa e se lui dice buongiorno, molte volte, numerose volte, girano la testa dall'altro lato. La terza cosa che mi diceva che non può neanche più ritornare in Marocco, perché la notizia è ribalzata addirittura in Marocco, per cui adesso ha paura di rientrare in Marocco. Addirittura paura di rientrare in Marocco. Lei tra l'altro, so, sindaco, che oggi ha avuto un incontro col prefetto anche su questo tema, perché quest'uomo vorrebbe a questo punto cambiare luogo dove abita. Sì, allora lui a questo punto, proprio per questa grossa esposizione, è stata fotografata la casa, ha messo l'indirizzo dove abita. La conclusione è che lui, anche per maggior tranquillità, deve cambiare abitazione, non residenza, sempre qui a Monselice, ma cambiare abitazione. Io mi sono trovato con lui stamattina e la conclusione è di una persona normalissima, perfettamente integrata nella nostra società, che si rende conto di quello che ha fatto, perché era anche suo fratello, però lui ha cercato in tutte le maniere di convincere il fratello prima di andare dai carabinieri. Quindi lui, la grossa esposizione che ha avuto lo mette con un certo rischio, insomma, c'è un certo rischio, perché un musulmano integralista ci può essere da qualsiasi parte, no? Certo, lo potrebbe colpire. Ricorda un po', sindaco, quello che succede a chi testimonia contro la mafia. Sì, guardi, diciamo che quello che testimonia contro la mafia, alla fine il pentito deve essere il pentito, o chi testimonia alla fine deve essere preso dai carabinieri per tutta la vita. E lui giustamente vuole fare una vita normale, non vuole arrivare a questo. Tant'è vero che questa mattina, quando ci siamo parlati, l'accordo la cosa a cui abbiamo condiviso tutte e due è stato quello di cercare di ridurre l'esposizione mediatica a questo punto. Di ridurre l'esposizione mediatica, tanto che non si vuole più far fotografare, non vuole dire che si trasferirà, non vuol dire dove andrà ad abitare, perché l'esposizione mediatica, e spera che pian pianino vada, diciamo, nel dimenticatoio la sua personale esperienza, in maniera che possa fare una vita normale. Che possa fare una vita normale. Ma si è ipotizzato di dargli una protezione? Si dice, lei ha parlato col prefetto, no? No, protezione no. Ha parlato col prefetto, ha detto in questo momento la cosa migliore è quello di rallentare l'esposizione mediatica su questo argomento, di questa persona. Noi gli staremo vicini, perché noi cercheremo di stare vicini. Adesso rapidamente cercheremo di vedere come fargli cambiare indirizzo. E poi il segnale è importante, perché significa che insomma è un segnale molto importante, un fratello che segnala, anche se fossero due italiani, un fratello che segnala il proprio fratello è un segnale molto forte dal punto di vista di integrazione sociale. Un segnale molto forte. Naturalmente bisogna stare attenti che non si trasformi in qualcosa contro di lui. La ringrazio, grazie a Francesco Lunghi, sindaco di Monselice. Colgo l'occasione di questo saluto al sindaco, perché un ascoltatore ha detto, avete usato l'espressione nome di battesimo per parlare di quello che tecnicamente sarebbe il prenome di una persona che è musulmana e quindi evidentemente non è battezzata. Perfettamente ragione, diciamo che nel linguaggio comune nome di battesimo, come sapete, è il prenome. Se avessi detto prenome mi avreste preso in giro altrettanto. Ci occupiamo di INPS e di quella che pare essere una truffa, o quantomeno ci sono degli indagati per un'indagine partita da Nocera Inferiore e che sta arrivando fino a Roma. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. False pratiche per prestazioni non dovute dallo Stato, ma anche ispezioni e conseguenti premi di produzione, c'è questo al centro dell'indagine della Procura di Nocera Inferiore, che interessa dirigenti e alti funzionari dell'INPS campani e romani. Un affare che, tramite la mancata cancellazione di decine di posizioni previdenziali fittizie, avrebbe prodotto in un paio d'anni un danno stimato in oltre 4 milioni di euro. L'inchiesta è partita nel 2012 dell'Agro Nocerino, si sta estendendo a livello nazionale e, da quanto trapela, sono diverse le decine di posizioni al vaglio degli inquirenti che lavorano in vari uffici provinciali e regionali dell'INPS, ma anche appunto nella sede centrale di Roma. Al momento le ipotesi di reato vanno dal falso ideologico alla truffa aggravata. In particolare l'indagine denominata Mazzolino, coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza, va delineando un meccanismo che permetteva di incassare anche 200.000 euro l'anno di premi di produttività per il lavoro svolto, che avrebbe portato appunto alla scoperta di queste pratiche fitte. Ti ringrazio, grazie Laura Viggiano per questo aggiornamento. Dunque, si incassavano, almeno questa è l'ipotesi dei magistrati, premi di produzione per delle truffe scoperte che poi magari truffe non erano. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, anche se vi abbiamo dato già qualche accenno poco fa nella seconda parte della trasmissione. Ci occuperemo di Cannes. Come vi abbiamo raccontato, non c'è nessun italiano in concorso per la Palma d'Oro quest'anno, forse qualche polemicuzza questa cosa la susciterà. E poi ci occuperemo della vicenda degli ambulatori. Ieri è stato dato il via libera alla convenzione, che comprende anche le regioni e che prevede che si creino degli ambulatori con i medici di base che lavorino 7 giorni su 7, questo anche per svuotare il pronto soccorso. In alcune regioni già avviene e parleremo con una persona che guida uno di questi ambulatori. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: si alza il livello dello scontro tra Italia e Austria. Vienna si dice pronta non solo ad aumentare i controlli, ma a chiudere il Brennero. Il Parlamento europeo dà il via libera ai controlli sui passeggeri. In chiave antiterrorismo, le compagnie aeree dovranno fornire tutti i dettagli. Marco Milanese, ex consigliere politico di Giulio Tremonti ed ex deputato del PDL, è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Milano in un filone del processo del caso Mose. La creazione del Fondo Atlante non è un salvataggio del sistema bancario, per questo non solleva alcun problema di aiuti di Stato, lo dice il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. A Milano, i funerali di Casaleggio, i militanti del Movimento 5 Stelle gridano onestà fuori dalla Chiesa. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per parlare di Cannes, del Festival di Cannes, perché notizia di oggi è che non c'è nessun italiano in concorso per la Palma d'Oro. C'è un film italiano in concorso per la sezione Un Certain Regard, e mi scrive un ascoltatore, Marta Cagnola, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, Simone, mi scrive italiano, tanti maestri però. Adesso ci arriviamo. Mi scrive un ascoltatore: a Cannes c'è un cortometraggio italiano in concorso, Il silenzio, di Ali Asghari e Farnoush Hamadi, prodotto da Giovanni Pompili. Francamente lo ignoravo, me lo scrive su Twitter. Dici un po' allora, questo Cannes senza italiani almeno nella sezione principale, diciamo. Senza italiani, ma insomma qualcosa offrirà se abbiamo dei registi come Pedro Almodovar con Julietta, abbiamo Olivier Assayas, Jean-Pierre e Luc Dardenne, abbiamo l'amatissimo Xavier Dolan, Jim Jarmusch, Ken Loach, Brillante Mendoza, Christian Mungio, Chan-wook Park, Sean Penn, Nicholas Winding Refn, insomma alcuni dei più grandi maestri, Ken Loach, tutti. E nella competizione ufficiale sono 20 i film selezionati. Niente da fare per Marco Bellocchio né per Roberto Andò, che erano quelli così in odore di competizione. Ci saranno invece Pericle il Nero nella sezione Un Certain Regard di Stefano Mordini, con Riccardo Scamarcio. Nella Kanzen invece La pazza gioia di Paolo Virzì, scritto con Francesca Archibugi, con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. Fuori concorso L'ultima spiaggia, documentario italo-greco sul tema dei migranti di Thanos Anastopoulos e Davide Del Dega. Fuori concorso corso, però ci saranno anche Occhio, Money Monster di Jodie Foster con George Clooney e Julia Roberts e Il gigante gentile di Steven Spielberg. Non ci sarà film di chiusura perché l'ultima sera verrà proiettato il film vincitore della Palma d'Oro ed è questa un'assoluta novità. Dicevamo appunto anche la presenza del corto che ci rende molto felici, c'è La Santa che dorme di Laura Samani, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per concludere tutto il quadro degli italiani. Allora, ti ringrazio, grazie Marta Cagnola per questo aggiornamento su Cannes. Adesso noi cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo di quello che è stato firmato ieri. Ieri è stato licenziato il cosiddetto atto di indirizzo per la medicina convenzionata, che così non mi dirà niente, ma in sostanza è quello che consentirà la creazione di ambulatori aperti, come titolo del Sole 24 Ore, H16, perché non è H24 ma per 16 ore, 7 giorni su 7. In alcune regioni già avviene, per esempio in Emilia-Romagna o per esempio nel Lazio. Siamo con Fabio D'Andrea, associato alla UCP, Unità di Cure Primarie di Piazza Istria di Roma, che ha una cinquantina di medici associati, è una fra le più grandi, è tra l'altro il vice segretario della FIMG, che è un sindacato. D'Andrea, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci spiega semplicemente ad un potenziale paziente come funziona? Nel Lazio l'H16 non è funzionale, ma c'è un H12 con assistenza territoriale nei turni della continuità assistenziale. Allora aspetti Andrea, perché abbiamo un audio veramente pessimo. Le chiedo se riesce a piazzarsi in un posto dove il cellulare prenda e riusciamo a sistemare la cosa. Allora proviamoci un attimo. Nel frattempo vi riferisco io di che cosa si tratta. Si tratta in sostanza di vere e proprie aggregazioni funzionali e territoriali che metteranno insieme dei medici, nei quali ci sono medici di base, dei medici specialisti e dei pediatri, e che appunto saranno aperti diciamo 16 ore al giorno, 7 giorni su 7. Che cosa consentirà questo, per esempio, di svuotare il pronto soccorso? Ma forse abbiamo recuperato D'Andrea, che ce lo racconta un po' più dal territorio. Allora ci dica come funziona, insomma, quotidianamente. Spero che si senta bene. Allora, stavo dicendo, nel Lazio nell'assistenza è garantita da ambulatori di medicina generale distribuiti sul territorio, e che garantiscono un'assistenza ambulatoriale con i medici di famiglia, i medici di generale, 9 o 12 ore al giorno. Poi subentra l'attività della guardia medica negli orari festivi, dalle 8 alle 8 del mattino successivo. Quindi nel Lazio c'è ancora un'assistenza che non ha preso in considerazione questa nuova proposta. Diciamo che dalle 12 ore, dalle 8 alle 20 ci sono alcuni ambulatori aperti tipo di Piazza Istria che garantiscono, attraverso la presenza di un medico di famiglia tutti i giorni, 7 giorni su 7, quindi 365 giorni l'anno, la presenza di un medico di famiglia e un infermiere a garanzia di una continuità assistenziale ambulatoriale. E negli altri momenti, poi, anche per sopperire tutte quelle esigenze del cittadino, come le visite a domicilio in giorni festivi o in orari notturni fino dalle 8 di sera alle 8 di mattina, c'è la continuità assistenziale della guardia medica e sono colleghi sempre della medicina generale che intervengono in caso di necessità. Questo nuovo sistema invece prevede alcuni cambiamenti che appunto nella regione Lazio ancora non sono totalmente effettivi. Non sono effettivi operativi. Il vantaggio di tutto questo, in sostanza, quello che vediamo noi, insomma, è di non costringere la gente ad andare in pronto soccorso o comunque di svuotare il pronto soccorso, no? Sì, fondamentalmente il vantaggio è quello di fare da filtro sui codici bianchi e verdi, cioè quelle patologie di lieve entità d'emergenza, ovviamente, che molte volte possono dare un maggior peso e aggravio sul pronto soccorso. Ovviamente il peso del pronto soccorso non è che diminuirà tantissimo, perché poi comunque sia ci sono tutta una serie di conseguenze strutturali che si sono incanalate in questi anni con riduzione dei posti letto, che comunque determinano una stasi del paziente dell'attesa del pronto soccorso comunque sia. Quindi diciamo che il cambiamento strutturale della sanità deve essere a 360 gradi, prendendo tutti gli operatori e tutte le organizzazioni e le strutture sanitarie che sono presenti sul territorio, poi ovviamente. Naturalmente. Senta, lei è anche, appunto, come si diceva, vice segretario della FIMC, che è un... A livello provinciale, che è un sindacato. Quali problemi intravede nell'attuazione di tutto questo? Allora, ci sono alcune cose che devono essere definite. Se possibile in breve, 30-40 secondi che ci manca poco tempo. L'atto di indirizzo è un atto che praticamente porta con alcune indicazioni a una trattativa convenzionale. Quindi di fatto ci sono alcuni elementi che devono essere ancora valutati bene, tipo l'impatto del cambiamento negli orari notturni, della mancanza della continuità assistenziale e l'intervento del 118, quindi bisogna vedere se questo porta a un vantaggio o uno svantaggio poi in realtà per l'assistenza sanitaria sulla distribuzione territoriale e sulla garanzia che il 118 sappia far fronte a tutta una serie di situazioni che sono presenti sul territorio anche semplici. La ringrazio, grazie a Fabio D'Andrea per essere stato con noi, all'ascoltatore Luigi che ci dice a chi servono questi nuovi ambulatori. Teoricamente servono esattamente a tutti, cioè vanno a sostituire come primo filtro, diciamo così, il pronto soccorso, anche per gli orari che fanno e per il fatto che sono aperti 7 giorni su 7. Sarà, diciamo, una nuova formula per avere il medico di base sostanzialmente sempre disponibile. Ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.